la tua esperienza con un gruppo che ha percorso degli anni insieme a livello umano e artistico, ecco, come, che tipo di esperienza è stata dal tuo punto di vista personale? Con Marlene chiaramente intendo. Sì. Eccomi qua, ho 51 anni, la cosa è iniziata noi ci siamo incontrati ufficialmente per la prima sessione di prove, quindi poi ci siamo conosciuti, credo che io avessi 24 anni, 23-24 anni. Il nostro primo disco è uscito quando io ne avevo 27, quindi il nostro primo disco è uscito 23-24 anni fa, più quei 3 anni di prove lì, 3-4 anni, diciamo siamo quasi vicini a 30 anni di reciproca frequentazione. Sì. Mica cazzate, quasi 30 anni. Neanche le storie d'amore più insospettabili riescono, cioè no, mi sono espresso male, diciamo, anche le storie d'amore, quelle che sono più, che sembrano più cementificate, poi non tutte arrivano a questa lunga durata, a questo arco temporale così dilatato nel tempo. Anche perché si tratta di più persone. Sì, ma c'è una cosa che fa, secondo me, la differenza. Il sesso. Siamo tutti esseri prettamente eterosessuali e quindi non ci sono fra di noi gelosie che possono nascere da tradimenti, perché nessuno tradisce nessun altro in quanto, ripeto, essendo noi tutti eterosessuali. Credo che uno dei problemi reali nelle coppie uomo-donna abbia a che fare col sesso, spesso. E lì qui si aprirebbero voragini di possibili ragionamenti su questa cosa, però ecco, uno dei motivi per cui spesso le coppie non durano ha a che fare con il cedimento della passione di uno dei due, mediamente un po' più il maschio che cede, e invece in un contesto di un gruppo musicale questo problema non c'è, però è comunque in ogni caso estremamente raro e quindi sorprendente che una band stia insieme per 30 anni, soprattutto in maniera così coesa, in maniera così leale e senza mai in 30 anni aver dovuto affrontare un litigio di quelli proprio che mettono ansia, che per 2 o 3 mesi non ti parli, no? Queste cose. Ci sono stati momenti di dialettica molto intensa, come giusto che sia, perché in fondo è un raggruppamento di persone che hanno un obiettivo importante, no? Portare avanti una storia musicale, per certi versi è un'esperienza accomunabile a quella di un'azienda, con tutte le differenze da rimarcare del caso, ma con tutta una serie di cose che invece sono estremamente simili. E una unione dove c'è sempre stata, secondo me, anzi si è sviluppata nel corso del tempo, una dimensione di lucida intelligenza nel modo di amministrarci. Perché è abbastanza intuibile il fatto che in una situazione di in un ensemble artistico che mette insieme più teste è molto facile che a un certo punto comincino a venire fuori gelosie, invidie, no? Il ruolo di uno è più in vista del ruolo di un altro. E l'intelligenza di cui parlo ha a che fare col fatto che questo tipo di problematica ce la siamo sempre scampata, perché grazie all'intelligenza ciascuno di noi sa molto bene quello che sa fare l'altro e sa molto bene che senza l'apporto dell'altro forse quella magia verrebbe meno. Quindi Marlene Kunz sono io, l'interfaccia col mondo, per tutta una serie di motivi molto, molto ragionevoli, molto plausibili. Intanto sono quello che crea l'immaginario del gruppo, perché tutti i testi sono miei, quindi, okay? Le musiche tutte insieme, però i testi li faccio io, quindi ci sarà sempre un intervistatore come te che mi chiederà qualcosa dei testi e Riccardo e Luca diranno sempre bisognerebbe chiedere al Cristiano, quindi eccomi qua. E poi è abbastanza tipico che il cantante in genere abbia un po' quel ruolo, no? per definizione. Però in un gruppo ci sono tutta un'altra serie di competenze che bisogna saper non sottovalutare. Ad esempio Riccardo, che è il potenziale nerd del gruppo, se non fosse diventato un musicista avrebbe avuto ottime chance di diventare uno di quelli, ma che uno di quelli che magari inventa l'applicazione della vita, perché è un ingegnere. Senza di lui, né io né Luca, che peraltro è qua con me stasera, né io né Luca sapremmo risolvere tutta una serie di questioni legate alla faccenda tecnica. C'è un problema? Ma anche in internet, anche col computer, c'è un problema? Ricky, lui con una pazienza sconfinata, risolve il problema. Ci pensa, fa un po' così e risolve. Luca ha tutta un'altra serie di competenze che sono fondamentali. Quindi ecco, questa compenetrazione, questa capacità di capire che l'uno è necessario all'altro, secondo me rappresenta uno dei possibili segreti per cui dopo 30 anni siamo amici leali e questa non è veramente una cosa molto ricorrente. Bravo. Grazie. Io vi do le spalle, quindi se volete, quando lui non so più. Fatemi A me sapere, se volete sappiate che puoi voltare le spalle a me io. tranquillamente. Vabbè, però parlo anche con te. Legata a questo discorso, a questo punto ti chiedo anche dell'idea del tour, se non sbaglio, partito lo scorso anno, legato al ventennale di un disco. Appunto, come nasce l'idea anche. Perché non tutti gli artisti hanno lo stesso rapporto col proprio repertorio. Ma io non sono capace a far finta di raccontare una realtà piuttosto che un'altra. Ci si può imbattere spesso i musicisti che dicono cose del tipo, che ne so, avevamo voglia di risuonare questo disco perché sentivamo la mancanza, oppure questo. Non lo so, la motivazione di base per cui si fanno questo tipo di cose è semplicemente, detto in maniera molto poco poetica, sono occasioni di lavoro, punto. Lo fanno ormai tutti nel mondo, fra l'altro. Quindi la malizia di dire, questa stupidaggine, la malizia di dire non sanno più che cosa dire, è una stronzata, è una cattiveria idiota. Non è vero, non è che un gruppo non sa più cosa dire. Un gruppo non ha locali dove suonare a volte, l'Italia è molto piccola, ma ricordatevi, ho detto prima che questa è una cosa che stanno facendo nel mondo. Cioè ci sono un sacco di gruppi nel mondo, a un certo punto perché c'è un ventennale o comunque una ricorrenza ufficiale di un disco che ha fatto la storia del percorso di quel gruppo, viene riproposto e non ha a che fare, secondo me, in maniera preponderante con dimensioni artistiche o di una nostalgia insopprimibile, ha a che fare con un'opportunità. E quindi, una volta che io ho fatto questo tipo di ragionamento, quello che poi dico è beati i gruppi che nel loro repertorio hanno dei dischi che la gente a distanza di 20 anni vuole risuonare. Detto ciò, poi è pur sempre reale, vero, che è un'emozione speciale cercare di riprendere in mano dei dischi che hai pensato 20 anni prima. Quando gioco forza, inevitabilmente la tua energia era un'altra, fisica, mentale, la nostra energia fisica e mentale ci sono ad altissimi livelli, però 20 anni fa il nostro fisico rispondeva in maniera diversa, andavamo sul palco a esplodere in una maniera diversa anche fisicamente. Ma quando tu poi sai che stai per risuonare un disco pensato 20 anni fa, e quindi corrispondente al te stesso di 20 anni fa e lo vuoi riportare sul palco per una serie di date, sono cose a cui pensi. Primo cerchi di immaginare come eri tu 20 anni prima, anche proprio per riprendere in mano quei pezzi con un tipo di consapevolezza che ti riporti laggiù e che quindi ti permetta di suonare quella roba con anche la competenza giusta. Perché 20 anni di percorso artistico, per quanto tu magari cambi poco, perché ci sono gruppi che cambiano poco, i Marlene Kunz secondo me hanno cambiato molto per il desiderio di non ripetersi mai, anche quando il tuo percorso è abbastanza sempre più o meno un tipo di proposta abbastanza simile, però 20 anni di suonate in giro per l'Italia ti plasmano, ti modificano, secondo me ti migliorano mediamente, quantomeno da un punto di vista esecutivo, e tutto ciò si riverbera in ciò che andrai a fare, che non può essere uguale a quella roba lì che avevi pensato 20 anni prima. Quindi Quindi è anche interessante. Poi nel caso dei gruppi come Marianne Gunsker, che fanno una cosa particolare, che hanno imparato a fare da uno dei gruppi loro idoli, che si chiamavano purtroppo, ahimè, questa cosa devo dire è passato solo in Cuff, e abbiamo questa cosa delle chitarre accordate in maniera diversa. Noi ne abbiamo poche accordate in maniera strana, cioè andiamo nei momenti in cui c'è un certo agio e si può andare in giro con un grosso furgone, con un camion che porta in giro un sacco di strumenti e un sacco di materiale, a testa abbiamo girato con 6-7 chitarre, 8 chitarre, accordate più o meno tutte diverse, tra le 5 e le 7 chitarre. I Sonic Youth, nel momento di loro massimo fulgore, giusto prima che gli rubassero tutti gli strumenti, questo fu un dramma per i Sonic Youth. Questo accadde all'epoca di un disco che si chiama A Thousand Leaves, subito dopo, non so, sarà 15-20 anni fa direi. Prima che gli rubassero tutti gli strumenti, i Sonic Youth erano una band che andava in giro con una ventina di chitarre a testa. Tanta roba, 20 chitarre a testa. Quindi quando la gente vede questi cambi di chitarra, non ha esattamente a che fare con il fatto vado a Tasso Moore, vuol suonare la Fender Jaguar piuttosto che la Gibson, che peraltro non credo abbia mai suonato una Gibson in vita sua, ma non è il cambio di chitarra in sé, è il cambio di accordatura. Quindi le canzoni dei Sonic Youth hanno una loro irriproducibilità proprio perché hanno quel timbro completamente personale, che è l'accordatura. L'accordatura, soprattutto come la usavano loro, è estremamente curiosa, estremamente... Sì, qui ci sono dei chitarristi, magari qualcuno lo sa, chi non lo sa, le accordature dei Sonic Youth erano aperte, questo è chiaro, ma loro sperimentavano delle cose assurde, tipo ci sono delle accordature di Lee Ranaldo, che sono le prime quattro corde a partire dal basso verso l'alto, sono all'unisono, sol, sol, sol, sol. Immaginate cosa vuol dire fare una pennata di quattro sol così, un suono grosso così, wow! Tu non hai molte possibilità da un punto di vista di diteggiatura, infatti vedrete chitarristi di quel tipo suonare con questi barre così e poi le dita vanno un po' lì, però se tu hai quattro sol, molto che ti sposti, però vai in là di un tono, un tono e mezzo, quindi c'è qualcosa di dissonante, non ci sono terze, non ci sono quinte, sono intervalli strani. Quindi peculiarità del suono, i Marlene ne hanno molte di meno, però riprendere in mano un disco che hai concepito anche con accordature diverse vuol anche dire ricordarsi proprio visivamente quello che tu avevi fatto. Quindi è una sfida interessante, quindi diventa stimolante a prescindere dalle necessità pratiche e contingenti. Sentiamo qualcosa? Risposto? Sì. Sentiamo qualcosa. Va da sé che questa non è una accordatura aperta. Mi viene voglia di aprire questa mia piccola performance con un pezzo, forse chissà, proprio perché ne abbiamo parlato, con un pezzo del Vile, che è il disco di cui si parlava. Non l'abbiamo nominato, però credo che tu facessi riferimento al Vile, no? Anche se noi già avevamo iniziato a celebrare Catartica un po' di tempo prima, quando era il ventennale di Catartica. L'anno scorso abbiamo fatto il ventennale del Vile, il Vile è il nostro secondo disco, chi conosce Marianne Kunz lo sa, lo so che lo sa. 96. Sì, grazie, questo non sarebbe 96, quindi 22 anni fa. È un disco, sono perfettamente consapevole che è un disco mitico per un sacco di persone. Non c'è una spiegazione particolare per cui quel disco è venuto così, che è particolare, è scuro quel disco, è un disco problematico, ma nello stesso tempo ruggisce molto. E, non c'è un motivo particolare, spesso, sai, poi Marianne Kunz sono passate attraverso una serie di tempeste non indifferenti, sono 15 anni che ci rompono il cazzo perché non siamo più quelli di una volta, quelli che hanno deciso di rompere il cazzo. E poi ci sono quelli che invece fortunatamente ci seguono e sanno apprezzare il nostro desiderio di non ripeterci. E non è che tu dici ok, adesso mi rimetto a fare un disco così. Sono dischi che fotografano il presente vissuto in quel momento. Rifare una cosa di quel tipo sarebbe un'operazione molto poco genuina, sarebbe semplicemente un tentativo di approfittare di un segreto per provare a rintracciare un nuovo tipo di riscontro. tu non puoi rifare una cosa che hai fatto perché vivevi uno stato d'animo di un certo tipo quando l'hai fatta 20 anni fa. Quindi questo disco è venuto così. C'è una cosa curiosa, ad esempio, nei riguardi del vile. È un disco che non credo che sappia di campagna, ma noi l'abbiamo suonato in una campagna, quel disco. Fu il nostro primo tentativo, quindi abbastanza prematuro, di sperimentare con il cosiddetto studio mobile. Vuol dire, no? Vuol dire, anziché andare in uno studio di registrazione, vuol dire prendere il materiale che serve, e all'epoca ne serviva molto di più di quello che serve al giorno d'oggi, perché la tecnologia al giorno d'oggi permette con due cazzate di far sembrare un disco grosso come una casa. All'epoca, per far sembrare un disco grosso come una casa, serviva un sacco di materiale. Serviva una casa. E infatti, giusto, bravo. E infatti venne affittata una cascina nei pressi della nostra cittadina, Cuneo. E uno dei ricordi che più mi lega al vile di questa cascina è, banalmente, un mattino. Aveva nevicato tutta la notte, quindi era un periodo invernale sicuramente. Il mattino il tempo cambia, sole abbacinante che si riflette su tutta la superficie, e lì, con questa situazione così tersa, questo cielo veramente profondissimo, vedevi dappertutto, lì mi sono reso conto di quanto eravamo in the middle of nowhere, come dicono gli inglesi, nel centro di questa campagna sperduta, non lontana da Cuneo, ma lì non c'era niente intorno a noi. E forse è anche uno dei motivi per cui questo disco è così. Questo forzato isolamento in un contesto straniante, che ha sicuramente giovato all'atmosfera del gruppo. Un'altra cosa che ha giovato, forse, sicuramente, poi suona. Credo che sia la prima volta che racconto così tanto di un pezzo prima di suonarlo. Un'altra cosa che sicuramente ha giovato per le sonorità di quel disco credo che sia l'ossessivo ascolto che facevamo di gruppi tipo i Soundgarden del periodo di Ultra Mega Ok e di i primi dischi loro. Ultra Mega Ok credo dovrebbe essere il secondo, c'è qualche esegeta poi di Soundgarden. Comunque roba, no, i duri e puri direbbero quando non erano ancora commerciali. Quindi dopo si sono sputtanati, guardate, che troia, non sono d'accordo, ma un po' sì. E quindi mi ricordo questa ossessiva, giocavamo a poker la notte, e mi ricordo questa ossessiva presenza di Soundgarden come tratto distintivo dei nostri ascolti. Thank you. Di suonare una canzone composta nel 2004-2005. Il disco in questione è Bianco Sporco, un disco molto intenso dal mio punto di vista. È il disco in cui io smetto di fumare le sigarette con Luca. Mi ricordo benissimo, il momento era un momento di sala prova in cui ci si provoca vicenda e si dice ok, domani smettiamo di fumare, ed è accaduto. Quindi, 13 anni fa. Non so come mai mi è venuto in sala questo, vi sento gentilmente tutti molto silenziosi e attenti, quindi è una canzone molto delicata che si chiama La lira di Narciso. Ci ascoltammo, silenzio e parola, corredo del testo della seduzione, il suono segreto delle brame musicali la scena. Poi, finalmente un dì, ti presi fra le mani, le tue foglie s'adagiarono sui miei pali, ma il soffio della vita, il suo schiaffo, ti fecero presto volare via. Ed ora qui ciò che intorno a me si specchia con me, riflesso in un'immagine che si anima di quello che anima me, quello che anima me. Resterò qui un anno, un altro, quanti più, specchiandomi ovunque dove eri tu e intorno a me narcisi e quietudine e tutto ciò che si anima. Quello che anima me, quello che anima me, quello che anima me, quello che anima me. Cristiano, a proposito dei 90, per come li ho vissuti io musicalmente da ascoltatore, per quanto mi riguarda credo che siano l'ultimo decennio di un rock a livello creativo e anche di diffusione. Se penso all'Italia mi vengono in mente, oltre ai Marlene Kunz, gli After Hours, gli Electro Joyce, i Subsonica. Se penso a livello internazionale c'è il crossover, il grunge, il trip hop. Tu come la vedi in tal senso? Mi chiedi rispetto a quel decennio oggi, che è stato secondo me a livello, come ti dicevo, di creatività e diffusione, forse l'ultimo grande decennio del rock. Purtroppo hai ragione, poi dire il perché non è esattamente semplice, cioè forse bisognerebbe dare una risposta di questo tipo dopo averci riflettuto e magari proprio aver organizzato un pensiero organico, coerente, in cui sono state valutate tutta una serie di cose, quindi posso soltanto dire a istinto, no? Un po' di pancia, cosa potrebbe essere accaduto. Peraltro io non sono un sociologo e non ho delle qualità da sociologo. Però internet in qualche modo c'entra. Ne parlavamo anche oggi, non so più con chi. Se c'è una cosa che mi sembra evidente nel confronto fra quello che veniva chiamato l'indie, a cui volenti o nolenti noi appartenevamo nel periodo in cui siamo usciti fuori, quindi gli anni 90, e l'indie come lo chiamano adesso, cioè da un punto di vista musicale non c'è niente in comune. È anche un po' sorprendente che quello che viene chiamato adesso indie venga chiamato indie. Se l'indie degli anni 90 era quella roba là, come può essere questa qua indie? Indie è l'abbreviazione di indipendente. Indipendente teoricamente dovrebbe essere dire qualcosa svincolato dalle grandi pressioni, delle major, bla bla bla. Marlene e Kunz non sono mai stati esattamente una band che aveva questo tipo di problemi. Ok? Avevano dei problemi di natura artistica, non politico-ideologica. Quindi l'idea che una major distribuisse le nostre cose tendenzialmente non ci inorridiva. Avremmo semplicemente cercato di capire, entrano nel nostro processo creativo e ci rompono i coglioni e ci snaturano oppure no. Questa era l'unica discrimine, ok? Non era una questione politica. Però poi Indy in realtà da lì si è un po' trasformato, secondo me, questa era la motivazione originale, la spiegazione originale, però si è un po' trasformato nell'identificare esteticamente un modo di essere musicisti rock. C'è l'indie inglese, c'è l'indie americano, c'era, no? Quella roba là, cioè l'indie inglese per me è una roba che so identificare bene, bene questo inglese, se sento l'indie americano, che è la mia casa, sono molto più americano che inglese come ascolti, so di cosa sto parlando. Per me l'indie americano era tutta la pletora di gruppi del noise rock, per se parliamo degli anni 90, ho nominato i Sonic Youth, ma sono la punta del mio iceberg, però lì sotto ci sta una marea di gruppi che io ho ascoltato. Ho citato i Soundgarden di Ultra Mega Ok, quella roba lì quando uscirono lì non erano, era prima di Black Hole Sun, lì era indie, nel senso lo ascoltavano i famosi quattro gatti nel mondo, quelli che seguivano certe cose. C'era tutto il mondo di quello che poi sarebbe stato nominato in maniera roboante il grunge, ma poi c'erano tutta una serie di altri gruppi delle varie scene americane, quelli che poi sarebbero diventati, i Raithman, che poi sarebbero diventati Big Black, io dico Steve Albini, sapete tutti che Steve Albini è colui che ha prodotto Nevermind dei Nirvana, ha prodotto anche un sacco di altri dischi importanti, è uno che un po' ha fatto la storia di un certo tipo di suono, e lui aveva un certo tipo di gruppi, si chiamava Raithman, Big Black, c'erano gli Helmet, che poi gli Helmet sono diventati una roba quasi più mainstream metal, ma all'inizio anche loro erano noise. Bello mainstream. Freud, dove sei? Se quella roba lì era indie e esteticamente definiva qualcosa che bene o male chi parlava di quella roba lì capiva di che cosa stava parlando. Poi, ripeto, non è facile dire. Cioè, quando si entra nel territorio delle definizioni, delle cose, questo sì, questo no, è tutto molto, molto, molto discutibile, tutto molto, molto, molto confutabile. Tutte stronzate. Però cazzo, se adesso i giornalisti sono indie, non ci si capisce. E non lo dico esattamente con desiderio di farvi partire l'applauso, non c'è esattamente una cattiveria. Non li ascolto molto e non mi piacciono molto, ma non importa, questo non ha nessuna importanza. Non voglio essere caustico con loro, anzi, poi loro stanno avendo un successo pazzesco, quindi al limite c'è solo da rosicare, al limite. Però non li ascolto e non mi piacciono. Perché io mi sto avvicinando al tentativo di risponderti. Se c'è una cosa che differenzia questi due ambiti che ho provato a descrivere in un modo un po' spiccio, estetici, di riferimento, generazionali evidentemente, secondo me è il fatto che quello che arrivava dalla nostra generazione aveva una sorta di imprinting in nome della purezza. Era fondamentale per noi dimostrare purezza, purezza di intenti, purezza di risultati, di suono, ed era una cosa talmente presente come guida, che era quasi un dogma. Quindi era, per noi era proprio fondamentale far capire, guarda che cazzo sto facendo una cosa proprio col cuore, con l'anima, eccetera. Secondo me quello che sta accadendo invece, perché internet ha spostato tutta una serie di parametri di riferimento, eccetera, non ha più a che fare con la purezza. C'è un sacco di strategia lì dietro. C'è proprio una roba che, non dico a tavolino, ma quasi, è una roba che è stata proprio creata per, sapendo cosa bisogna fare per arrivare lì. Bravo. Questa secondo me è una differenza. E beh, per certi versi anche un, cioè, ho detto che ho 51 anni, cioè, e purtroppo è anche molto difficile per i gruppi come il nostro, anche volendo cercare di intercettare dei segreti per dare un upgrade alla tua situazione di cui c'è bisogno, non è però facile depurarsi di quell'approccio puro e andare verso un approccio disincantato, spavaldo e quasi privo di idealismi, perché quella roba lì è anche una roba generazionale, cioè, Ed è molto connessa, secondo me, con internet. Ha molto a che fare con la capacità di interpretare un fenomeno che non puoi non interpretare, perché se tu fai la guerra con internet hai perso nel giro di 2 giorni, ciaone, come si dice, fine, ciao, te ne vai, proprio perso nell'oblio della dimenticanza, sei fuori. Quindi si cerca di stare lì dentro, si cerca di interpretare il fenomeno, però sapete molto bene, non ve lo vengo a raccontare, il nativo digitale ha una marcia in più. Che è poi il classico esempio, no? Cioè, avete qualcuno qua, qualcuno ha dei figli, sa cosa vuol dire? Se io dico, se io metto in mano un oggetto tecnologicamente o avanzato o comunque uscito pochi giorni fa, e la tecnologia è tutta questa roba qua, no? Io detesto abbastanza questa cosa, per cui secondo me le grandi aziende della tecnologia, tutta una serie di upgrade che ci propongono nel corso degli anni, loro secondo me le hanno già, solo che ce le snocciolano a noi, in modo che noi idioti, no? Ogni volta cerchiamo di essere sul pezzo e spendiamo un sacco di soldi, questo è consumismo, per avere la roba così, ma loro sanno che fra 3 anni ce ne propineranno un'altra che sarà cos'ha, e quella lì te la faranno sembrare desueta. Per fortuna io sono fuori da questo meccanismo, ma non lo dico con vanto, semplicemente perché sono un po' un troglodita virtuale, quindi sono un po' tagliato fuori, non sono un nerd. Il nativo digitale però, questo nuovo ritrovato della tecnologia, glielo metti in mano a un ragazzino, è la classica situazione che in 5 minuti interagisce, il 51enne in 12 ore, no? E questo fa la differenza. È in atto una rivoluzione, evidentemente. È un qualcosa che si studierà proprio nei libri di storia, il momento in cui è arrivato internet. Come si studia il momento in cui arrivò la stampa con Gutenberg, e di colpo accaddero cose rivoluzionarie che prima non c'erano, come quando arrivano i dischi, la possibilità di riprodurre su un oggetto la musica. Quando accade quel momento lì, il 90% dei compositori era inorridito, perché non riusciva ad accettare l'idea che la sua musica, a cui era abituato in un altro modo, cioè l'idea di un compositore è: faccio una musica e la faccio suonare dal vivo, la eseguo, la coordino, la dirigo, si sta parlando di un ensemble orchestrale, ma dal vivo. L'idea di convogliare tutto in questi solchi, che all'epoca erano ancora giganteschi, no? Quando nacquero i primi dischi, però di mettere la musica lì dentro e soprattutto perpetuarla era una bestemmia, era una roba, no? Quindi è evidente che da questa cosa qua si trae anche una buona intuizione, un buon insegnamento. Non conviene mai essere troppo abbarbicati sulle proprie vecchie posizioni, perché tanto la storia ormai ci sta insegnando che la tecnologia, quando prende piede con un ritrovato che funziona, ci sopravanza, e quindi conviene starla a interpretare. Però il cinquantenne che è in me fa fatica rispetto al ventenne, e quindi questo credo deve aver dato una risposta comunque sensata, dicendo come mai non c'è più quella rock lì. E però hai tirato in ballo internet, per cui adesso qualcosa lo diciamo. Perché chiaramente il digitale ha cambiato molto e ha decretato la fine dei supporti. Il vinile è un discorso a parte, però comunque è cambiato tutto, e il live ha mantenuto, anzi forse ha rafforzato la sua valenza, soprattutto per i gruppi che vogliono farsi conoscere. Ecco, rispetto a questa dimensione, il digitale, la fine dei supporti e il live, voi e tu come vi rapportate? Parto dalla fine della mia risposta precedente, c'è necessità di interpretare, un mondo cambia, e conviene uscire in fretta dalle batoste che questo mondo che è cambiato ci ha regalato. Lo dico spesso, cioè i musicisti, e credo i fotografi e i video artisti, quindi coloro che fanno video, sono stati i primi a essere danneggiati dalla rete, perché dovete mettervi in testa che questo è ciò di cui si sta parlando. Dall'oggi al domani tu sai che metà della tua attività non è più remunerata, appunto, non c'è molto da stare a raccontare stronzate intorno, è un dato di fatto. C'è questa cosa qua, fai i dischi e il 90% della gente che deciderà di ascoltarti se li prenderà gratis. Quindi tu lavori per una roba che sai che non è più remunerata e devi fare i conti con queste cose qua. E, qual era la domanda? Okay. No, una serie di elementi ho tirato in ballo, la fine dei supporti. E la... cosa succede? Cioè, quindi, poi la dimensione live, perché comunque okay. Adesso il concerto rappresenta molto. Sì, no, tutto chiaro. Quindi stavo per dire questo, i musicisti secondo me avevano, ormai abbiamo un dato acquisito, avevano molti diritti da lamentarsi secondo me, ed è curioso il fatto che per un certo periodo di tempo in realtà non lo facevano, perché era veramente una cosa molto politica di scorrect, dire mi sta sul cazzo che internet mi prenda gratis la musica, se tu lo dicevi 7-8 anni fa, la gogna là fuori, come si dice, era pronta a massacrare. Perché tu passavi per una sorta di idiota rincoglionito che non sa interpretare la modernità con una deriva ideologica, perché dietro c'era tutta questa cosa della democrazia della rete, tutte puttanate, perché il signor Google e il signor Zuckerberg eccetera si stanno facendo miliardi di milioni di euro sui nostri click che facciamo in giro per la rete. Ogni volta che voi fate un click a loro serve per buttare dentro tutta quella roba in questi immensi big data, a noi non ce ne frega un cazzo del nostro click, ma quel click lì dovrebbe essere pagato dai signori che, usando il nostro click, il mio, il tuo, il suo, tutti, moltiplicato per tutto il pianeta occidentale, no? Sono miliardi non redistribuiti. Ma non un click. Ogni volta che io faccio un giro in internet, cioè provate a immaginare, ogni volta che io faccio un giro in internet, faccio 350 click, tutti quei click sono catalogati, ma non è che loro vanno a vedere se io sono andato a farmi un giro in un sito porno, allora non gliene frega niente, è l'algoritmo che lavora e prende tutte queste informazioni, ma lo fa per me, i miei 350 click, lo fa per te, moltiplicato per tutto il pianeta che viaggia in internet. Ci sono dei computer che sono ormai diventati delle cose, dei mostri enormi, che raccolgono tutto questo e raffinano sempre di più la capacità degli algoritmi di lavorarci, per dare sempre più delle soluzioni raffinate, che sono sempre più un qualcosa che ci avvicina all'idea che gli algoritmi prima o poi potrebbero mettersi in competizione con l'essere umano, e secondo me non è così fantascienza. E quello che vi realtà volevo dire, musicisti, ok, ma adesso internet sta mettendo in difficoltà molti altri, secondo me, settori lavorativi. Ponete caso, siete tenutari di un negozio, c'è qualcuno qua che vende vestiti, che ha un negozio che vende vestiti? O libri? Libri. Libri? Io compro un sacco di libri su Amazon, mi scuso, ma Amazon, se io cerco un libro su Amazon, il 98% di quello che mi viene in mente di cercare lo trovo, in una libreria no, e Amazon me lo fa arrivare a casa forse il giorno dopo, se non due giorni dopo lo standard. No, ok, poi veniamo su quel discorso. No, ok, lasciami finire. No, ok, lasciami, sì, ok. Ma allora io, se vuoi, io mi metto a distribuire sensi di colpa a tutti quelli che hanno scaricato la mia musica gratis. E siamo lì. Se vuoi la mettiamo su quel piano lì. Guarda, io sono andato a fare presentazioni dei miei dischi dicendo alla gente fate che cazzo volete, perché è talmente idiota sperare di inculcare un aspetto proprio etico in una cosa che tanto sta andando da un'altra parte. Punto. Scusami. Non so che faccio male, ma purtroppo è così. Comunque sbagli nella vita, se ne fanno tante. Vabbè, un giorno io e te ci facciamo un giro in campagna, usciamo dal sistema e vediamo dove andiamo. Vediamo cosa succede. E anche i vestiti, ok. Poi, i vestiti, c'è un sacco di gente che va nei negozi di vestiti, li fotografa, va a casa e se li prende in internet. E questo sono problemi reali, c'è un sacco di negozi che hanno problemi, quindi questo è quello che sta accadendo con internet. Questa è una rivoluzione. Poi si può decidere di stare fuori il sistema, come dice il ragazzo là, però io lo sto facendo da 51 anni, io faccio musica che non è nel sistema ed ho pagato un sacco di conseguenze. Quindi non c'è più perché lui è stanco di starmi a sentire, ma lui si è rivolto alla persona sbagliata. Cioè, ci sono al limite l'educazione andrebbe, ma è una causa persa. Tu non educhi un mondo che sta andando in un'altra parte. È un po' come quando ti ho detto prima, se stai fuori da internet, non è che internet ti viene a riprendere. Ciao, fine. Quindi questo è quello che hanno a che fare i musicisti e diventa importante il live, come tu mi stavi chiedendo. Ora io chiudo dicendo questo, vero, ma l'Italia è così piccola e i locali sono sempre quelli e tutti i gruppi hanno bisogno di suonare molto di più, ma l'Italia non si ingrandisce per tutti questi gruppi che hanno bisogno di suonare di più. Non ci sono nuovi locali che nascono perché c'è una domanda, un'offerta esondante. Quindi il problema da monte si sposta a valle e rimane, non risolve la cosa. Quindi la musica è in difficoltà. Però sentiamola. Certo. Ancora un po' più indietro rispetto al Vile, una canzone di Catartica. Abbiamo avuto la grande fortuna, l'onore, il privilegio. Non so se i CSI fecero la cover di questo pezzo prima o dopo l'uscita del disco. Sto parlando della canzone che si chiama Lieve e che i CSI coverarono, come si usa dire. Dopo? Molto, molto poco, no? Dopo. Fu un momento molto emozionante, anche perché noi eravamo del tutto puri, liberi, cioè era uscito il nostro disco, per noi era tutta aria nuova da respirare, wow. E il fatto che Ferretti e Marocco e Zamboni decidessero di fare una cover del nostro pezzo che era appena uscito con noi, così entusiasti di tutto quello che ci stava per accadere, fu estremamente emozionante. Grazie, grazie. Grazie mille. Questa è una canzone invece scritta non più di 6-7 anni fa, direi, forse 5. Arriva da un disco che si chiama Nella tua luce, è un pezzo che cerca di empatizzare sapendo di non poterlo fare nei confronti di una categoria sociale che è tristemente un po' in aumento, dicono le statistiche, per via di tutta una serie di cose che sono molto anche connesse con quello che stiamo raccontando un po'. Parlo dei crociard, delle persone che si ritrovano senza un lavoro nella strada. Infatti ci si fa una camminata nelle città, ci si imbatte nei crociard. Pensate al tipo di gelo che c'è in questi giorni, ieri è morto uno a Mantova. Sono cose che ci passi di fianco, vorresti avere la possibilità di essere una persona che risolve un problema e sai che non puoi far nulla. In fondo quello che ho scritto ha a che fare con questo tipo di sentimenti. grazie mille. Voglio andare un attimo sul personale. Attento. No. Nuotando nell'aria, come vi dicevo di là prima, è uno dei pezzi, dei vostri pezzi, che apprezzo veramente molto, ed è uno dei due pezzi che porto sempre con me sul cellulare. Volevo chiederti come nasce e cosa rappresenta per te. C'è un amore dietro, c'è una delusione in quel momento lì. Non fu neanche l'amore più importante della mia vita. Fu una cosa, secondo me, post-adolescenziale, con tutta la necessità di rispettare i sentimenti post-adolescenziali. Ci mancherebbe. Anzi, spesso poi il filtro della maturità rende un po' meno romantiche cose che avrebbero bisogno di rimanere molto romantiche, così come in effetti, buttando nell'aria testimonia, c'è cioè un romanticismo che visto dal me esterno più maturo sono eccessive, sono enfatiche, però sono molto genuine perché sono esattamente quello che vivevo in quel momento. Cioè, mi riguardi di nuotando nell'aria, è una cosa estremamente per me affascinante nei confronti del processo creativo. Io sono molto attratto da ciò che ha a che fare col processo creativo, è una cosa che mi piace raccontare ed è una cosa che mi piace sentirmi dire. Se tu apprezzi un artista, più che empatizzare con le sue storie, con i suoi personaggi, se si parla di un romanzo, con i personaggi delle sue canzoni, se si parla di un cantante, la cosa secondo me più interessante, più utile o comunque più pertinente nei confronti di un processo, di un prodotto creativo, quindi di un'opera artistica, ha a che fare con il processo creativo, cioè sapere perché quella roba è così bella, perché quella roba mi tocca così tanto, lasciando un po' da parte l'aspetto dei sentimenti, perché se ci si basa unicamente sulle emozioni e sui sentimenti, non è che si fanno dei gran giudizi, perché dire questo pezzo mi piace perché mi emoziona tanto, anche la casalinga di Voghera famosa potrebbe dire di un romanzo che secondo noi è una stupidaggine, mi emoziona tanto. L'emozione non aiuta molto a dirimere la faccenda. Se si vuole arrivare a capire e a sviluppare il proprio gusto, devi andare oltre l'emozione, devi usare la testa e capire perché questa cosa è così figa. Tutto questo non è che poi dopo, adesso l'aneddoto che vi racconto, forse non ha molto a che fare, però io ritengo che sia intrigante, cioè l'idea di far nuotare nell'aria il lio narrante, che poi ci sono pochi cazzi, in quel caso sono io, punto, ha molto a che fare col fatto che io quel pezzo lo scrissi, io non ricordo se vivevo ancora con i miei genitori, ho fatto lo studente universitario, quindi non ho voluto andare a vivere, fare il residente a Torino, quindi ho fatto colui che andava avanti e indietro, non volevo incidere sui miei genitori più di tanto da un punto di vista economico. Forse anche con una sorta di substrato di onestà intellettuale veramente encomiabile, perché a me faceva schifo quello che stavo studiando e quindi, perché ho studiato economia e commercio, e ho pensato, vabbè, a me interessa la musica, faccio questa roba, non chiedo di andare a vivere a Torino, che comunque avrebbe rappresentato un esborso da parte dei miei genitori, trovare una casa come fanno molti. Quindi ogni mattina mi facevo un'ora di treno. Secondo me vivevo ancora in casa dei miei, e se non è così, quel giorno comunque ero a casa dei miei, e nella mia stanza, la famosa stanza da letto con la scrivania, dove studiavo e dove ogni tanto ho scritto dei testi, davanti a me, allora, mia madre è un prodotto degli anni, cioè mia madre è una che ha vissuto in pienezza estetica gli anni 60 e gli anni 70, quindi tipo le tappezzerie, cioè la sua casa è piena di tappezzerie, no? Colori anche, non dico i colori sgargianti degli anni 70, ma comunque c'è una certa sovrabbondanza da questo punto, una certa generosità. Qui la sua casa è molto piena, forse c'è un horror bar qui sotto che è, quindi è tutto molto pieno. La mia stanza, i paramenti erano una tappezzeria preziosa, perché era tipo di seta forse, quindi azzurra, tutti i filini che scendevano giù. Io sono, immaginatevi seduto qua così, davanti a me un muro con questo paramento che rappresenta un cielo evidentemente. E mia madre è religiosa, come tutte le famiglie, come tutte, come un sacco di famiglie italiane della tradizione italiana tipica, e a questa altezza qua davanti a me c'era una faccia di Cristo. Però non un crocifisso e nemmeno era un ovale e era in gesso, la faccia di Cristo nuotando nell'aria. È così, però io poi chiaramente lo credo di essere riuscito a dargli e chiaramente poi quella roba lì è l'aneddoto, perché quello che mi piace dei processi creativi è che spesso le opere che ci piacciono, che si accendono, nascono da situazioni istintive, intuitive di questo tipo. È un'occasione, no? Tu hai una specie di... hai una cosa che probabilmente non c'entrerà nulla con quello che poi tu andrai a scrivere, ma che è la scaturigine della tua ispirazione. E paf, quella roba lì. E quel Cristo lì era il mio puff in quel momento. Poi da lì, nuotando nell'aria, è diventata una roba che è coerente con il tipo di sofferenza romantica che è rappresentato in quel testo. Suona! E visto che ci stiamo avvicinando all'ultima session, intanto invito chi è qui, se ha curiosità, se ha domande per Cristiano, si faccia pure avanti. Se non sbaglio sei al lavoro per incidere, volevo sapere se si può anticipare qualcosa di proprio legato al processo creativo rispetto a questo nuovo lavoro. No. Perfetto, direi. Quanto senti, no? Ci sta tutta, amici, no? È giusto. Allora, contro ogni regola del climax, del pathos, no, che presiedono a questo tipo di cose, qualcuno ha detto suona nuotando nell'aria, la faccio per ultima. Yeah. Quindi non c'è neanche, non vi ho anche bruciato l'idea, la faranno o la faranno. Ok, facciamo così. Allora, questa è una canzone che amo molto fare in situazioni come questa. È una canzone estremamente delicata, questo è quello che posso dire per definirla, è in punta di piedi. Ce ne sono altre due o tre forse ancora un po' più dinamicamente basse, però questa è già particolarmente bassa ed è una cosa che a me piace molto andare giù con le dinamiche. Mi dà un sacco di feeling. Spingere con la musica, no? Fare i roboanti così è un po' più semplice, ottenere un tipo di consenso. Non così semplice è quando tu vai giù con l'intensità, ottenere comunque. Però io comunque trago molta emozione. È giusto usare il termine emozione in questo caso, non è così banale, è emozionante, suonare un pezzo di questo tipo e va bene. E una canzone, anche questa arriva da Nella tua luce, c'è di mezzo un poeta che si chiamava Mandelstam, della tradizione russa. I russi lo considerano uno dei grandi del XX secolo, quindi del 1900. C'è una triste storia intorno a lui, come ce ne furono tante, intorno a milionate di persone del popolo russo che vennero fatte morire in un modo pessimo, con una violenza pessima, dal loro dittatore che si chiamava Stalin. La colpa di Mandelstam era quella di essere un poeta che non era riuscito a piegarsi alle esigenze della dittatura, che erano quelle di l'arte può soltanto essere educativa. Quindi deve educare il popolo, deve rafforzare nel popolo questa idea gloriosa del comunismo che stiamo esportando nel mondo come modello funzionante. Ovviamente non era un modello funzionante, era un modello che ha mietuto molte vittime e agli artisti era richiesto questo. Chiunque non soggiaceva a questo diktat faceva una fine brutta, come la fece Mandelstam, che venne mandato a morire con metodi di una violenza inaudita, perché venne mandato a morire con molta calma, con tutta la consapevolezza del caso. Sapete che in Russia esistono i gulag, comunque esistono quei luoghi dove fa un sacco di freddo. E così, insomma, questo pezzo nasce perché stavo leggendo il memoir che scrisse sua moglie, che si chiama Nadezhda, Nadia Mandelstam, scrisse di questa avventura, e a un certo punto nel libro si evince che lei decise di imparare a memoria tutta la produzione poetica del marito, con un gesto, secondo me, l'intensità di quel gesto è d'amore, è ancora più rafforzata dal fatto che Mandelstam non era, prima di morire, un'istituzione, cioè non era un essere che tutto il popolo russo riconosceva, quindi non c'era neanche quella sorta di motivazione superiore per cui la moglie voleva preservare un patrimonio. La moglie voleva salvare il patrimonio di suo marito, senza sapere se la sua produzione poetica sarebbe poi stata destinata a una gloria imperitura. No? Quindi il gesto d'amore diventa così forte, così emozionante, proprio perché è puro, è amore puro. Allora, quando io lessi questa cosa qua, di questa sua volontà di imparare a memoria tutta la produzione poetica del marito, perché sapeva che se la polizia di Stalin fosse arrivata a casa loro a fare le perquise, come si dice, notturne, questa era una delle cose terribili che si vivevano in quel clima di terrore, narrate in maniera agghiacciante, cioè la notte, quando le famiglie andavano a dormire, lì erano già ormai tutti assemblati, due o tre nuclei familiari in appartamenti da 70 metri quadri, quando si sentiva qualcuno che saliva le scale di notte, si sparpagliava il terrore in tutto il condominio, perché si sapeva che era la polizia. E se la polizia entrava in casa tua, qualcosa di grave stava per succedere. Quindi lei, per scongiurare questa cosa, impara a memoria tutta la produzione. Quando io ho letto quello, mi è venuta voglia di fare una canzone che celebrasse questa bellissima gesto d'amore. So bene che mi perdonerai. presto sfogo che non ti aiuterà nell'orrore dove sei. Scapperò da ogni trappola che da un confino all'altro ostinata tua discepola, sempre dentro a me ti porterò e custodirò. Ti piace? si addensa il cielo poco socievole, in bianco, grigio e cupidità. La neve rende grevi le nuvole, in quest'alba metallica, eppure ti appresti a dimenticare quei turbamenti, costretto a sognare. Tra suoni e odori ci sono i motivi che ti ricordano che fai parte dei vivi. Tutti per essere venuti qua, speriamo che io e Federico, speriamo che sia andato tutto bene. Abbiamo chiacchierato in maniera gradevole, giusto? Sono contento. Grazie a tutti per essere stati qua, grazie per la vostra attenzione, spero che vi siate trovati bene e queste notano nell'aria. un grammo di gioia nel tuo sorriso, e non mi basta nuotare nell'aria per immaginarti. Se tu sapessi che pena ho imparato. Mi piacerebbe stare.